tutto quanto c'è intorno. Come un'eclisse in pieno giorno, quelle voci impresse nell'animo mio, quando solo un cucciolo d'uomo ero io, di noi prigionieri di un sogno, ma veramente liberi dentro. Molto più di quelli che per contro dovevano essere i nostri carcerieri, essendo poi carcerati veri. Non c'erano sbarre a trattenere la fantasia che spaziava intorno in tristezza e allegria, poco dentro e molto fuori quelle mura, con speranza e ansia ma senza paura, certi vive in compagnia della solitudine.